Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La sua risposta tarda più di quello che mi aspettassi. Poi, finalmente arriva. Scusa, ero sotto la doccia. L'accendino lo vengo a prendere subito. 5 minuti e sono da te. Sono Martina, sono di Genova, ma studio a Forlì e in questo momento mi trovo in Brasile a fare uno scambio. Ho 24 anni e studio scienze internazionali diplomatiche. Per ascoltare la puntata di oggi io dovrei fare un disclaimer, soprattutto nei confronti di tutti i maschi all'ascolto, perché già attraverso i messaggi che arrivano sul profilo Facebook di questo programma, che arrivano sin dalla mattina, che sono più o meno danno il polso della situazione, la sensazione è tante donne che hanno voglia di ricordare e di parlare del tema di questa puntata e tanti uomini che invece dicono vabbè, ma chi non si è capito, ma chi se lo ricorda, ma sì, vabbè. E invece no, e invece è proprio a voi che vorrei parlare oggi, a tutti i maschi che sono probabilmente in automobile o sono al lavoro e che dicono sì, ragazzi, ho capito, ma il primo bacio con mia moglie, ma gliel'avrò dato 20 anni fa, ma anche se fossero 15, ma anche se fossero 5, ma chi se lo ricorda? E invece no, abbassa un attimo la base, Paolino. Oggi alle 16:09 di un qualunque martedì 12 di marzo io vi chiedo di fare questo sforzo, soprattutto se è da tanto tempo che siete sposati o fidanzati con la vostra compagna, lo stesso vale anche per le donne, però facciamo che parla ai maschi. Adesso vi mettete lì 2 minuti e cercate di ricordarvi com'è stato, dove e perché avete dato il primo bacio alla vostra fidanzata. Ripeto, fidanzata, moglie o compagna che sia. 349-238-6666. Oppure, se siete davanti a un computer, voi siete qui, @radio24.it. Altrimenti, il profilo Facebook, che è Voi siete qui, Radio 24. La storia di Martina è una storia che, vabbè, appartiene a una categoria rispetto ai messaggi e ai racconti che ci arrivano, che è piuttosto ampia, che è la categoria amore, sentimenti, amore, l'abbiamo chiamata amore. Però questa è una parte, diciamo, è una sottocategoria di questa categoria, che è il primo bacio. Per primo bacio però non si intende il primo bacio di sempre, cioè il primo bacio di quando avevi 10 anni, adesso non so quando si dia il primo bacio adesso, però 13, 14, il primo bacio della tua vita. No, del primo bacio con la persona con cui stai in questo momento. E se siete fidanzati da un anno è facile, da 2 anni ancora, ma se ne avete 20 in mezzo di anni tra quel giorno e oggi, beh, allora vale ancora di più la pena cercare di ricordarlo. 349-238-6666 per dirvi giusto alcuni messaggi. Gabriele, non me lo ricordo. Jenny, nella macchina di lui a mezzanotte dopo una serata un po' troppo alcolica. Francesca, in macchina dopo il nostro primo appuntamento, io chiacchieravo e lui sostiene di avermi baciato sperando che gli dicessi un no tondo e che scendessi. Carlo, boh, non me lo ricordo. È proprio da voi che mi aspetto grandi cose, uomini. 349-238-6666. È una storia semplice, parla del primo bacio, ma proprio per questo è la storia di tutti. Sono 2:30 di notte. Domani parto per la Germania e devo ancora farmi la valigia. Sono appena tornata da una cena con altri amici dello studentato. Continuo a girarmi quell'accendino tra le mani. Un mini bic verde acido che casualmente mi sono trovato in tasca. Dovrei restituirlo al legittimo proprietario o portarlo con me a Tubinga. Ora rigiro anche il telefono tra le mani. Gli scrivo o no? Gli scrivo. Ciao, l'accendino è rimasto a me, mi sa che si farà un giretto in Germania. La risposta tarda più di quello che mi aspettassi ad arrivare, ma in fondo è tardi, magari dorme. Intanto preparo la valigia. Poi finalmente risponde. Scusa, ero sotto la doccia. No, no, altro che Germania. Ora me lo vengo a prendere. 5 minuti e sono da te. In pratica in Germania sono andata 3 giorni a fare una gara di taekwondo. Adesso sto facendo la magistrale in scienze internazionali diplomatiche, ma in triennale sono laureata in lingue. Non so se ho fatto la cosa giusta. Praticamente ho invitato il lupo nella tana. Alessandro mi piace, ma ha 4 anni meno di me, non so cosa potrà venirne fuori. Cerco di concentrarmi sul presente e di godermi il momento. Indosso un paio di leggings e una polo larga, qualcosa di casual ma accuratamente studiato. Mi trucco cercando di non sembrare truccata. Poco dopo Alessandro arriva. Ancora non lo sappiamo, ma è l'inizio di una bellissima storia d'amore. Inizialmente c'è molto imbarazzo, ci conosciamo da poco ma c'è molta attrazione. Io preparo una camomilla, poi ci spostiamo nella mia stanza.

esatto. Che tempo, che ore sono e che tempo fa a Belo Horizonte? Allora, adesso è quasi mezzogiorno e mezza. Sì. E è una bellissima giornata, c'è il sole e ci sono circa 35 gradi. L'unica, diciamo, l'unica disdetta è che l'ho guardato dopo che me l'hai detto tu, in realtà, che Belo Horizonte non è sull'oceano. Quindi no, non è che uno dice, bello, vai in Brasile. Però sei nel posto che sta andando più di corsa rispetto a tutto il resto del mondo. Cioè il Brasile è il luogo in cui tutti dicono, bisogna andare in Brasile adesso. No, ma infatti diciamo che qua stanno abbastanza bene, nel senso c'è tanto lavoro e i brasiliani, dai, sono contenti comunque. Dai, questo dai qua... è proprio bolognese, dai, sì, alla fine sono contenti, alla fine dai, ma sì, dai. E tu sei contenta? Beh, sicuramente, guarda, per molti versi sono meglio di noi, almeno qua lavoro ce n'è e tanto anche. Sì, beh, immagino che la situazione sia molto diversa dalla nostra, ma più contenti, poi, più contenti non mi tirerai fuori la storia che ballano e hanno il carnevale, però. Ah, beh, Dio. Pure quello fanno. Il carnevale è molto importante qui, è una festa sacra, chiude l'università, chiude tutto. Qual è la cosa che ti piace di più del Brasile, di questo periodo? Sei lì da un mese e mezzo, giusto? Sì, esatto. Qual è la cosa che ti piace di più o quella che ti piace di meno? Oddio, quella che mi piace di meno sicuramente sono le case per studenti, che lasciano molto a desiderare. Quella che mi piace di più è l'atmosfera che c'è e le persone. Ancora niente, però le piacevano l'atmosfera e le persone. Riusciamo a richiamarla al volo intanto, così poi le chiediamo, dopo il Brasile le chiediamo di Alessandro. Torniamo ai primi baci, 5 anni e mezzo fa davanti alla facoltà dell'Università degli Studi di Pisa, molto inaspettato. Fra un anno ci sposiamo, più o meno il tonore è questo, 20 anni fa ce n'è uno che va più in, più, eccolo qua. In un prato in collina, 8 marzo dell'87, sposati da 23 anni, Franco. Abbiamo di nuovo Martina. Martina, ci sei? Dai che ce la facciamo. Purtroppo adesso abbiamo pochissimo tempo. Mi sento che cade la linea, non so chi lo sa. Ovviamente prima si sentiva. Guarda, abbiamo un minuto. Dimmi di Alessandro, da quanto dura adesso la storia, come va? Allora, da un anno e 2 mesi quasi. No, va molto bene. La distanza è dura, è molto dura. Perché quindi Skype a manetta, immagino. Esatto, Skype e WhatsApp anche per fortuna, quindi possiamo messaggiare gratis e parlare. Mi ricordi quanti anni hai tu, Martina? Io ne ho 24. E lui continua a averne 4 meno di te, anche in Brasile. Esatto. E questa cosa come va? Poi ti saluto. Come va questa cosa? No, assolutamente non ci ha creato nessun tipo di problema per il momento. Perché lui dimostra più anni di quanti ne ha. Niente. L'hai detto tu, non l'ho detto io. Martina, ti ringrazio per la storia e per la chiacchiera. Fai una buona grazie permanenza in Brasile. Okay, e saluta Alessandro. Grazie. Ciao, grazie. Buona giornata. Ciao anche a te. Ciao, ciao, ciao. Questa è bellissima. Ci siamo baciati su una panchina nel retro di quello che ora, dopo 7 anni, è la nostra gelateria. Nicole da Trento. Voi siete qui. Se andate sulla nostra pagina, sul sito di Radio 24, trovate la foto di oggi, in cui ci sono, proprio di fianco alle etichette Ascolta e Condividi, ci sono le facce di Martina e di Alessandro, ovviamente. È il tipico autoscatto in cui lei abbraccia lui e lui tiene la macchina fotografica. Lui è sugli occhiali da sole, lei no. Sono sorridenti, c'è davvero poco da dire, sono felici. C'è un prato alle loro spalle e in fondo delle montagne innevate. Bacio. Sostantivo maschile. Atto di passione, affetto o venerazione dato dall'accostamento e dall'eventuale pressione e schiudersi delle labbra. In pasticceria, denominazione di piccoli dolci anche molto diversi tra loro, ma accomunati dall'essere di dimensioni molto ridotte. Etimo, latino, basium. Dice il poeta, un bacio, è che? È mamma mia, è che? Davvero, davvero? Non lo so. E poi... non lo so fare. Eh? Non lo so fare, va bene? E vabbè, lo so fare io per tutte e due. Diana Zaffini, ho imparato, Fiatella mi ha insegnato. È stato 3 pomeriggi, pari. Siamo stati sotto al muretto, lui mi ha insegnato come si bacia. Allora, è facilissimo. Chiudi gli occhi, rilassati, chiudi gli occhi, guarda me, e appoggiati, ecco, rilassati, non pensare a nulla. Guarda me, chiudi gli occhi, guarda me, mettiti così. Chiudi gli occhi, guarda me, mettiti così. Apri gli occhi, prima guarda me e poi...